La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpura, eccoci qui all'appuntamento settimanale con il cinema qui su Radio 24 come tutti i weekend. Siamo ormai al rush, davvero al rush finale, a pochi minuti ormai dalla conclusione della Mostra del Cinema di Venezia con l'assegnazione del Leone d'Oro di questa 68esima edizione. Quindi su Venezia, di Venezia parleremo in questa puntata, facendo subito fra poco un collegamento con Boris Sollazzo, che dalla Laguna ci dirà un po' le ultime che riguardano appunto il palmarès, il Toto Leoni, diciamo così, e poi anche confermandoci quelli che sono i film che seguiremo, perché sono già nelle sale italiane, sono arrivati proprio da Venezia nelle sale italiane. Questa settimana sono ben quattro, ce n'è anche uno che invece non arriva da Venezia ed è Super 8 o Super 8 se volete, e insomma materiale ce n'è molto. Noi cominciamo a riepilogarlo nei nostri titoli di testa. Si chiude la 68esima Mostra del Cinema di Venezia. Tutti i pronostici sul Toto Leone nel collegamento da Venezia con Boris Sollazzo. E da Venezia rimbalzano nelle sale quattro film, tre dei quali italiani. Attesa per la risposta del pubblico per Terraferma di Crialese e L'ultimo terrestre dell'esordiente Gipi. In sala anche il catastrofista Contagion. L'umanità sconvolta da un'epidemia che uccide milioni di persone. Ai nostri microfoni il regista Steven Soderbergh spiega la genesi del film. Prodotto da Steven Spielberg, sbarca in sala anche Super 8. Un gruppo di ragazzini con la passione per il cinema e le cineprese immortalerà l'arrivo degli alieni, il primo blockbuster annunciato della stagione. Ebbene, allora eccoci al primo collegamento. Apriamo subito la linea con Venezia, dove c'è per noi Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buonasera Franco, proprio sulla soglia della Sala Grande, in attesa di questi premi tanto sospirati. Facciamo tutti finta che non ci interessano, poi l'ultimo giorno lo passiamo. Beh, insomma, del resto, se esiste una competizione, è anche interessante capire chi la vince, perché almeno abbiamo anche un parametro. È stato sicuramente un festival nel quale si è visto del buon cinema, e questo mi sembra già una cosa abbastanza galvanizzante rispetto a edizioni del recente passato, nelle quali le facce dei critici in giro per la mostra erano piuttosto corrucciate e i commenti non erano certo esaltanti. Devo dire che tutto sommato quest'anno anche nel concorso c'è stata qualità e c'è stato equilibrio, tanto che a pochi minuti dall'assegnazione siamo appunto ancora con una certa fibrillazione. E allora partiamo, andiamo per ordine. Quali sono i candidati, secondo i rumors dell'ultima ora, i candidati principali alla vittoria, all'assegnazione del Leone d'Oro? Guarda, va detto che sono rimasti più o meno gli stessi di qualche giorno fa. Se si esclude l'avvento di Friedkin, William Friedkin, che a 76 anni fa un film da 18enne, questo Killer Joe straordinario, che ha un po', credo, scompaginato i piani della giuria, che aveva un po' deciso. E lo stesso vale per Gipi, che è piaciuto molto, che è sicuramente l'italiano, da quello che sappiamo noi, che ha convinto di più la giuria e che dovrebbe avere un premio, non il Leone, ma dovrebbe portare qualcosa a casa. A questi si aggiungono ovviamente il Polanski di Carnage, che è sicuramente uno dei film più interessanti di Polanski, non tra i migliori, ma sicuramente film solidissimo, con quattro attori straordinari. Non a caso molti suggeriscono una coppa volpi in coabitazione tra Kate Winslet e Jodie Foster, mancando forse a questo festival, se proprio vogliamo trovare il pelone all'uovo, grandi interpretazioni femminili in concorso. Fassbender presente in due film del concorso, quello di Cronenberg e quello di Steve McQueen, con cui aveva già girato Hunger. Dovrebbe quasi sicuramente, a meno che non fosse proprio la coppa volpi a spinelli per Gipi, la possibilità dovrebbe prendere la coppa volpi, diciamo anche non solo qualitativa ma quantitativa, essendo tre pochi che hanno due ruoli in concorso, e quindi dovrebbe arrivare da lui l'interpretazione maschile. Qualche speranza sembra esserci per Gary Oldman e per il complesso del film, per Tinker Taylor Sailor Spy, il film di Thomas Alfredson, grande spy movie, che insomma ha dimostrato di fare grandissimo cinema. E questi sono più o meno i rumors che si vogliono dare. Altre cose, altri titoli che sembrano però un passo avanti agli altri sono sicuramente quello di Sokurov, il Faust di Sokurov, che non a caso aveva già avuto dalla sua parte i bookmakers all'inizio di Venezia, e Simple Life, il film cinese Simple Life, che ha commosso molti, che ha convinto la critica, e loro due sembrano forse nelle ultime previsioni prima di questa premiazione che si svolgerà fra qualche minuto, quelli più vicini alla possibilità di vincere un Leone d'Oro, che davvero non è mai stato così incerto. Insomma, non c'è il grande favorito come poteva essere Sofia Coppola l'anno scorso. Ecco, questo significa appunto che abbiamo citato 6 o 7 film che sono in corsa fino all'ultima ora per il Leone d'Oro. Mi sembra di poter confermare, insomma, che si è trattato di un'edizione qualitativamente importante. Sì, devo dire, forse non c'è stato, da una parte, quando è un po' come il campionato di calcio, quando sono tante le squadre a giocarsi lo scudetto, vuol dire che c'è stata una qualità media più alta, ma non c'è stata la squadra che ha ammazzato il campionato. Qui è successa la stessa cosa, non abbiamo visto il capolavoro, però c'è stata una qualità media molto alta. Nei miei leoni personali, devo dire che sia Givi che Friedkin rappresentano una grandissima innovazione visiva, anche se Friedkin riprende in qualche modo la sua, il suo cinema di Vivere e morire a Los Angeles, Il braccio violento della legge, però rappresentano una grossa innovazione, nonostante siano, non siano più giovani, insomma, nessuno dei due. Friedkin ha 76 anni, lo stesso Gibi non è di primo pelo, credo ne abbia vicino ai 50. È curioso però che, a mio parere, in questa ricerca di innovazione i favoriti siano Sokurov e il film Simple Life, che secondo me invece rappresentano un cinema un po' più vecchio. Però voglio dire, è stato sicuramente un concorso vario e un concorso mediamente più alto. Forse è mancato solo il guizzo, il capolavoro, il film che ti fa rimanere a bocca aperta e non hai dubbi di premiare. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, la Rosa Purpurea, ancora insieme, ancora concentrati sulla mostra del cinema di Venezia e con i film che arrivano proprio in sala in Italia, arrivando appunto dalla Laguna, dal Lido, dove sono stati mostrati al mondo durante questa settimana. Sono 4 le pellicole che arrivano direttamente al cinema da Venezia, e noi cominciamo occupandoci di alcuni film italiani che trovano la via della sala. Il primo di cui vogliamo occuparci è Terraferma di Emanuele Crialese, era un film molto atteso. Sentiamo la clip. Grazie. No. No, grazie. Ecco le atmosfere del film di Crialese, la clip molto breve, il trailer del resto è quasi tutto musicale, però insomma ci porta dentro un Mediterraneo che c'entra molto con il film. Vero Boris Sollazzo? Beh sì, il Mediterraneo è proprio il centro di tutto il film, è l'acqua, l'elemento fisico, il liquido in cui Crialese nuota per raccontare questa linosa, per raccontare il dramma dell'immigrazione, per forzare anche un po' la mano su questo argomento, se si pensa insomma che dal suo film si evince che l'Italia è un paese che non può salvare i clandestini quando sono in acqua, e in realtà invece la legge dice che bisogna salvarli, non bisogna chiaramente portarli a riva. Però è probabilmente anche per illustrare un sentimento di disagio di fronte a un argomento come quello dell'immigrazione clandestina e non, che divide il paese, l'abbiamo visto proprio qui a Venezia anche con altri film come Cose dell'altro mondo, ma davvero Olmi, diciamo che se vogliamo trovare un filo rosso in quest'ultimo settembre è proprio avere tanti film sull'immigrazione. Per quanto riguarda Terraferma, Terraferma è un film semplice, curiosamente ben congegnato da Crialese, ma estremamente lineare. Il Crialese creativo, il Crialese che cerca il guizzo, il Crialese che vola alto, qui fa esattamente il contrario, racconta una storia molto semplice, forse troppo semplice, la racconta semplificando anche questi temi, e quindi alla fine forse ci si porta a casa un film che doveva essere fatto da un altro. Io ricordo un film di Pasquale Scimeca, Malavoglia, che secondo me è molto più forte e potente con questo stile di quello di Crialese. Ci sono almeno 2 scene però che mi hanno ricordate, quella della barca dei turisti mentre si suona Maracaibo, molto grottesca e divertente, e quella molto romeriana degli immigrati che assaltano la barca in cui il protagonista maschile voleva fare una gita romantica con Martina Codecasa, e lì sembra davvero una scena da film da Romero. Questi immigrati clandestini sono quasi dei morti viventi. Però insomma è un film, a mio parere, alla fine non riuscito. Mi chiedo sempre come saranno fatti, cioè la forma proprio, se sono alti oppure se sono bassi, se si possono toccare, se invece sono solo energia. Anna, o forse non può... Anna, c'è una cosa che forse ti farebbe piacere vedere. Ha invece stregato la Mostra del Cinema di Venezia, pubblico, critica, Gipi, con il suo film d'esordio alla regia, L'ultimo terrestre. Quello che avete sentito era un breve dialogo tratto dal trailer nel quale la protagonista femminile si chiede appunto come sarà stare con questi extraterrestri, visto che ormai la notizia del loro arrivo si è diffusa, e però da lì parte tutta una serie di situazioni tra il comico, il poetico, e forse questo è la maggiore capacità che ha dimostrato già Gipi, quella di mischiare il comico, l'ironico e il poetico nel suo cinema. Un film che potrebbe a questo punto ricevere un tam-tam davvero importante, Boris. Guarda, io me lo auguro, non so, dopo tanti anni che lavoriamo insieme, credo che tu mi abbia sentito dire la parola capolavoro poche volte. In questo caso mi sento di usarla, perché... sarà proprio questo esordio maturo, sarà che abbiamo di fronte un artista che da 20-25 anni fa grandi graphic novel che in fondo sono un piccolo cinema solo disegnato. Ci ritroviamo di fronte a un film, secondo me, clamorosamente bello, in cui le scelte estetiche sono fortissime e originali. In certi momenti siamo un cinema indipendente americano, di quelli pre-Sundance o all'inizio del Sundance. In altri momenti è un film anche molto italiano, in alcuni sembra Lynch, in altri, soprattutto nella interpretazione di Gabriele Spinelli, straordinaria, sembra quasi Peter Sellers di Oltre il Giardino. Attraverso l'alieno, come stanno facendo anche i Manetti con l'arrivo di Wong, c'è la metafora di una società disperata, una società che non può essere salvata neanche da un evento così straordinario, e che infatti prende questo evento con la massima indifferenza. E in fondo, ricollegandosi per esempio a Terraferma, ormai non ci stupisce che degli immigrati muoiano tutti su una barca, perché ci dovremmo stupire che degli alieni vengano da un altro pianeta? Con la capacità mediatica di trituramento che abbiamo, una notizia muore nel momento in cui viene raccontata. È un grande affresco del nostro paese, ed è incredibile che lo si faccia con degli alieni e con una serie di emarginati, di alienati dal mondo, come quelli raccontati da Gipi, che si sa, le vite disegnate male le sa raccontare benissimo. Davvero, davvero un bellissimo film, uno dei più bei film italiani che io ho visto negli ultimi anni. Allora andiamo a sentire le dichiarazioni di Gipi. Tu hai citato Lynch, Boris, e proprio da David Lynch e da una passione per questo regista parte l'intervista che Boris Sollazzo ha realizzato proprio con Gipi. Sentiamo. Non avevo riferimenti, non avevo spunti, però io sono cresciuto con Lynch. Nel senso, quando ho visto Eraserhead avevo 16 anni e ho pensato che era la cosa più bella che avessi visto in vita mia. Quando giocavo con le telecamere, facevo robe, mi veniva da fare i rumori con la bocca che ci sono nella colonna sonora di Eraserhead. Cioè, era un amore. Però al di là di quello, anche, cioè, per me il termine cinefilo è proprio inappropriato, perché sono ignorante come una capra. Però ero ignorante come una capra anche quando ho iniziato a fare i fumetti. C'ho degli amori di formazione, ma... Io ad esempio non ho neppure visto tutti i film di Lynch, però è vero che quando poi ho pensato a quella prima scena con la prostituta, eccetera, c'erano delle robe che me lo ricordano e mi fa piacere, c'è una sorta di amicizia, capito, unilaterale, però di dire, beh, se faccio una cosa così mi piace che ci sia quel tipo di atmosfera. Sì, insomma, in qualche modo fa parte del tuo immaginario. Eh beh, sì, mi sono formato con quella roba. Senti, quanto hai lavorato al montaggio? Cioè, un esordiente tendenzialmente, o anche un attore protagonista per la prima volta, tende a strafare. Io ho dei grossi problemi con l'ego, cioè nel senso che lo disprezzo, ne sono pieno, però ci combatto. Per cui già in scrittura tutte le cose che non erano funzionali alla storia ho cercato di toglierle. Naturalmente poi ci sono cascato lo stesso. Però in montaggio c'era il mio montatore Clelio Benevento, un angelo mandato dal cielo, che era sorpreso con quanto furore io buttassi via le cose. Cioè proprio lui dice, ma come, ma te sei regista, dovresti dirmi no, non tagliare, invece sei te che butti via le scene intere. Secondo me, cioè, negli anni ho fatto un percorso per sviluppare una capacità di racconto, e quindi quella parte lì dove ti fai le pippe, boh, penso che l'ha persa 15 anni fa, 10 anni fa, perché c'ho un'età. Se avessi magari 28 anni, 25, 30, magari se mi sarei, cioè, beato di ste robe, ma ora so cosa conta per me, cosa voglio che ci sia dentro, e so che di me non me ne frega, della storia me ne frega tutto. Per cui se nella storia una mia invenzione, capito, anche bellina a vedersi, non spingeva, io poi ho il terrore di annoiare gli spettatori o i lettori, il terrore cieco. Un nostro amico che lavora al ministero dice che il governo è già d'accordo con loro, che sbarcheranno presto, che andrà tutto bene, insomma che sono pacifici. A sei dita, uno è lungo. È un rettiliano, stai lontano perché sono mossi da impulsi sessuali. Stai attento. Mi si appoggia dietro. E questo allora era la presentazione dell'Ultimo Terrestre di Gipin, concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Gioco, game, è arrivato il momento di giocare, il primo game di questo mese di settembre, torna un appuntamento molto gradito dai nostri ascoltatori, quello con il nostro DVD game che si è trasformato sempre più in alta fedeltà, in high definition, con il Blu-ray game. Anche oggi giochiamo con un Blu-ray, noi vi facciamo ascoltare tre tracce, tre frammenti di pochi secondi, voi dovete indovinare di che film è, dircelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, e anche inserire il vostro indirizzo, il che agevolerebbe ovviamente le spedizioni per chi avrà vinto. Lo scoprirete la prossima settimana. Sentiamo la prima clip. Vedo sei gorilla. Sette. Credi che l'uomo col bicchiere in mano sia un turista? Beh, è un peccato. Non posso prendere le sue impronte qua fuori. E allora la Rosa Purpurea, @radio24.it, diteci di che film si tratta. Più tardi, ancora due possibilità. Siamo solo noi, cantava Vasco Rossi dal trailer di Questa storia qua, un altro film mostrato a Venezia. Purtroppo è stato il grande assente, i problemi di salute hanno impedito a Vasco di essere in Laguna, come invece era stato annunciato, sarebbe stata una presenza clamorosa anche per un tappeto rosso, per un red carpet abituato a tutte le più grandi star di Hollywood, ma insomma uno come Vasco avrebbe davvero destabilizzato il Lido di Venezia. Ci siamo accontentati di questo film, Boris, che arriva nelle sale, un minuto per raccontarlo. Altro che accontentati, è un piccolo gioiello. Paris e Righetti hanno fatto veramente un ottimo lavoro, anche perché hanno deciso di spostare il tiro non sulla rockstar, non sul mito, non su Vasco Rossi, ma su quello che forse è servito a far diventare Vasco il signor Rossi e il signor Rossi Vasco. Un racconto, una biografia di una generazione, di un luogo, Zocca, e di un uomo che qui appare molto più sensibile, fragile, nostalgico e difficile di quanto siamo stati abituati a vederlo nella vita reale, sul palco o in televisione, quando forse la guasconeria ha nascosto questi difetti o questi pregi. Sicuramente da qui esce un Vasco che piacerà anche a coloro che fan di Vasco non sono mai stati. La Rosa Purpurea. Del cantiere di una nuova fabbrica. Ha detto di aver incontrato qualcuno che stava male sull'aereo in aeroporto. No, ha detto che aveva il jet lag. Una persona si tocca il viso in media da 3 a 5 volte al minuto. Nel frattempo tocca maniglie, rubinetti e altre persone. Beth! Mamma! No, va in camera, tesoro! Perciò abbiamo un virus senza né protocollo terapeutico né vaccino finora. Hai avuto un malore stamattina, ti era già successo? Altri problemi di salute? No, allergie? No. Fino a ieri sera erano 32 casi. E purtroppo è morta. Certo, allora posso parlarle ora? Signor Emoff, sua moglie è morta. Ma di che cosa sta parlando? Calma. Che le è successo? Avete sentito il clima che si inerpica verso una certa adrenalina di questo film, di questa clip tratta dal film Contagion, presentato anche questo alla Mostra del Cinema di Venezia, un film che porta una firma importante per quanto riguarda il cinema mainstream, diciamo così, quella di Steven Soderbergh, un film che si inserisce nel filone catastrofista epidemico, diciamo, questo è lo spin-off epidemico di un filone appunto che ha fatto la storia del cinema e che è stato sempre fra i più graditi al pubblico. Un mondo nel quale, per motivi che non vengono almeno immediatamente compresi, e la comprensione di questi motivi sarà l'arco narrativo del film, sarà la cosa da scoprire, come è successo e cosa è successo, e insomma come la gente comincia a morire, come potesse essere una viaria, una SARS, una serie di cose che tra l'altro abbiamo vissuto negli anni recenti, come dire, ci trovano abbastanza preparati anche rispetto, e anche un po' angosciati se volete, rispetto a questo tipo di racconto. Steven Soderbergh dietro la macchina da presa per raccontare questo film, con un cast straordinario tra l'altro, di grandissimo livello anche popolare, da Gwyneth Paltrow a Jude Law, tanto per dirne due, insomma nomi importanti. Cosa ha spinto Soderbergh a raccontare questo film e come ci ha messo la firma Soderbergh, con quale taglio? Boris Sollazzo ancora con noi da Venezia. Boris. Ecco, il Contagion è come un virus che si espande, come un virus epidemico che si espande, è proprio come quello che racconta, perché all'inizio, la prima volta che lo vedi, hai l'impressione che qualcosa non vada, poi man mano che ci pensi capisci che però tutto quello che racconta ti ha lasciato qualcosa dentro, anche in termini quasi di paranoia personale, insomma, inizi a toccarti meno il viso e a lavarti più le mani, come insegna il film. E questo secondo me è la grande forza del film, la firma di Soderbergh è tutta in quella capacità che lui ha di essere allo stesso tempo un regista di blockbuster e un regista di cinema indipendente. Contagion è un blockbuster per il cast ed è diretto come se fosse un film indipendente. Lui scherzando mi ha detto non era difficile avere un grande cast in questo caso, perché comunque morivano tutti abbastanza presto e quindi non dovevano fare molte pose, non era difficile trovare gli incastri. Fuori dallo scherzo, lui qui la grande protagonista è la malattia, e la malattia è una malattia che non è quella tipica di un disaster movie, non cambierà il mondo, non sconvolgerà la struttura sociale, semplicemente farà molti morti, molte milioni di morti, è un qualcosa di più grande dello tsunami, ma più o meno la cosa è quella, e fa più paura, infatti questo mondo non è un mondo che è proiettato a 50 anni, 60 anni fa, a 60 anni, ai prossimi 60 anni. È un mondo che ha 2-3 anni più del nostro. E questo secondo me è la grande forza del film. È un film che ha quasi, come dire, un neorealismo pandemico, per cui ci mette di fronte a una realtà che può accadere, lo fa con una sobrietà assolutamente originale rispetto ai disaster movie, che di solito sono molto emotivi, molto potenti come immagini e struttura, e quindi quando lascia un po' spiazzati è probabilmente perché per l'ennesima volta Soderbergh è stato originale rispetto a se stesso e rispetto al genere in cui ha deciso di andare. È possibile che qualcuno voglia rendere la viaria un'arma? Non serve che lo faccia qualcuno. Ci pensano già gli uccelli. Ecco, guarda, si trasmette così. Dobbiamo solo sapere in quale direzione va. Il primo giorno erano 2 persone, poi 4 e poi 16. In 3 mesi saranno 1 miliardo. È a questo che andiamo incontro. Hanno convocato la Guardia Nazionale, sposteranno il presidente in un bunker. Sarà l'inferno. Battere! Così la verità viene nascosta al mondo. Brucia i campioni, distruggi tutto. Il nostro ineffabile Sollazzo ha avvicinato a Venezia anche Steven Soderbergh. Sentiamo cosa gli ha detto rispetto all'idea principale del film. It was born in Scott Burns' head. Il film è nato nella testa di Scott Burns. Stavamo pensando di fare un film sulla vita di Leni Riefenstahl e avevamo avuto una bella idea su come farlo. Ma all'ultimo momento ho detto: non credo che ci sia nessuna possibilità che questo film abbia un audience, per niente. Sarà un film molto difficile da fare, probabilmente prenderà diversi anni e non costerà poco. E ho detto: credo di aver preso un soggetto un po' complicato e perso soldi e tempo e giudicato male il fatto che la audience potesse essere interessata. E così ho chiesto a Scott Burns se aveva un'altra idea. E lui ha detto immediatamente: io farei un film pandemico, molto realistico. E io ho detto: facciamolo. E siamo partiti il giorno dopo a trovarci coi produttori. Abbiamo trovato un finanziamento indipendente per scrivere la sceneggiatura. E quando l'abbiamo finita siamo andati alla Warner Bros. E ogni cosa è successa molto velocemente. E per me è sempre un buon segno quando la gente dice sì in poco tempo. Vuol dire che qualcosa di concreto sta succedendo. La parte difficile di fare la sceneggiatura è stata stabilire chi era il personaggio, chi avremmo seguito attraverso la storia. E uno dei personaggi più interessanti, secondo me, è quello di Jude Law, che è uno degli ultimi personaggi che Scott ha creato. Lui ha detto: credo che noi avremo bisogno di questo personaggio in questo film per aggiungere un altro tipo di informazioni sui virus. Ed è stata un'idea molto intelligente. Girare poi il film in sé non è stato difficile, ma il montaggio sì. C'è infatti un sacco di materiale che non è poi stato inserito nel film. There was a lot of material that is not in the film. Ebbene, questo era quindi Steven Soderbergh che raccontava proprio al microfono di Boris Sollazzo l'idea da cui è nato questo conteggio nelle sale cinematografiche italiane. Noi siamo nuovamente alla finestra aperta sul Blu-ray Game e sentiamo la seconda traccia misteriosa del film di oggi. Gli uomini che cerchiamo sono dei professionisti. Gli piace la velocità e non si faranno catturare facilmente. Quindi attenti a non farvela sotto. Li troviamo, li prendiamo e li riportiamo indietro. Ma soprattutto non dobbiamo mai, mai lasciarli entrare in macchina. È successo tutto 10 ore fa. Inizia la caccia. Se avete indovinato di che film si tratta, nome, cognome, indirizzo e soprattutto titolo del film, alla rosa purpurea @radio24.it più tardi, l'ultima possibilità. Parliamo di Super 8 oppure di Super 8, quindi usciamo dal clima veneziano perché c'è qualche intruso, fra virgolette, anche nelle sale in questo weekend. È il caso di Super 8, che arriva però da un altro festival. Era stato uno dei film che avevano animato la Piazza Grande di Locarno nello scorso mese di agosto, un film prodotto da Steven Spielberg, molto molto atteso. Noi entriamo subito nel clima con questa clip. Non ho niente contro i tuoi amici, mi piacciono, ma le cose per noi sono cambiate. Devo aiutare Charles a finire le riprese. Perché non vai in giro con ragazzini che non passano tutto il giorno tra cineprese e trucco da mostri? Chiudi gli occhi, per favore. Sì. E... azione! Boris, allora, abbiamo sentito un pezzo iniziale di questa clip, un manipolo di ragazzini quasi da via PAL, però con la passione del cinema da fare, tra l'altro, quindi con le cineprese, ecco da qui il titolo del Super 8, che però gioco forza e forse loro malgrado incrociano in queste riprese qualcosa davvero di sovrannaturale. Steven Spielberg, anche da produttore, continua a giocare con il suo arnese preferito, che è quello dell'extraterrestre. Assolutamente sì, ma se vuoi anche quello preferito di J.J. Abrams, uno che comunque ha ispirato Lost, che per anni ha fatto credere che ci fosse una spiegazione aliena a quel groviglio incredibile di materia televisiva. E non parliamo di Cloverfield, era produttore J.J. Abrams, anzi molti sostenevano che dietro, insomma, al regista ci fosse lui, anche la macchina da presa. Entrambi quindi sono ossessionati dal tema extraterrestre. Ed è buffo, insomma, che ci sia con l'ultimo terrestre di Gipi nello stesso fine settimana anche Super 8. Io temo di non essere obiettivo su Super 8, perché J.J. Abrams lo considero il genio dei nostri tempi, Steven Spielberg lo era soprattutto a suo tempo, lo continua ad essere. Insieme mi fanno impazzire, in più hanno fatto un film che sembra uscito dagli anni 80, che sono gli anni che mi hanno formato cinematograficamente, quindi sembra di avere davanti i Goonies insieme a Incontri ravvicinati del terzo tipo, con un pizzico della Guerra dei Mondi, soprattutto per quanto riguarda i mostri, e all'inizio anche un po' Cloverfield. C'è una scena straordinaria, io adesso mi attirerò forse le antipatie, però c'è la famosa leggenda, la famosa visione di una locomotiva che arriva contro lo schermo nei primi anni del cinema. Il pubblico è così disabituato a quel tipo di immagine che scappa di fronte a questa cosa. Qui l'incidente ferroviario che mette in scena J.J. Abrams francamente non ha nulla da invidiare a quelle sensazioni, e non serve il 3D per fare cinema 3D, e questo loro due lo sanno benissimo. È un film divertentissimo, un film solo apparentemente nostalgico, è nostalgico solo nei supporti, solo nel ricordare un certo tipo di mondo, ma poi è modernissimo nel modo in cui tratta tutto questo. È un film anche in parte autobiografico, perché sia Spielberg che Abrams hanno iniziato come raccontano, come in quel gruppo di ragazzi, insomma. Abrams è il truccatore e sceneggiatore, che poi vedrete. Una menzione speciale sicuramente per Elle Fanning, che di sicuro è più brava della sorella, ma francamente è inquietante per talento e bellezza. L'ho visto. Nessuno mi crede. Io ti credo. La Rosa Purpurea. Eccoci qui alla Rosa Purpura, la quarta parte del nostro programma, come sempre in chiusura, ma siamo ancora a Venezia, stiamo ancora su Venezia, perché c'è la settimana della critica di cui parlare. È una sezione che qui dalla Rosa Purpura abbiamo sempre seguito con grande attenzione e che ha dato appunto i suoi verdetti, ed è un verdetto che parla italiano, il che ci fa ulteriormente piacere. Noi siamo in collegamento con Francesco Di Pace, che è il coordinatore un po' della settimana della critica, e io lo saluto, il collega e amico Francesco. Ciao, come stai? Ciao, bene, tutto bene, saluto tutti voi ascoltatori. Allora Francesco, dicevamo, ha vinto, partiamo da lì, ha vinto un film italiano, un film che ha molto colpito per la sua forza espressiva, per la forza delle immagini, al di là della durezza della storia che viene raccontata, anche se questo film italiano ha un titolo francese, appunto La Ba, ma c'è un motivo, ovviamente, trattandosi di immigrazione e di immigrazione francofona, no? Benché nordafricana. Puoi raccontarci un po' intanto il film e poi anche il grande successo, perché è stato un successo anche numericamente molto importante. Sì, diciamo che il verdetto sulla Ba è un verdetto di pubblico soprattutto, cioè noi critici l'abbiamo scelto, l'abbiamo selezionato, ma è da un po' di anni che la settimana ha un premio del pubblico, e la Ba appunto ha vinto il premio del pubblico Kino, quest'anno intitolato Kino, e questo a dimostrazione del fatto che è un film che è veramente piaciuto tantissimo in sala, ha avuto le sale sempre piene, c'è stata un'accoglienza magnifica. È un film molto difficile, è un film molto duro, e che quindi speriamo che abbia una vita proprio a partire da questa presentazione veneziana. La Ba vuol dire laggiù, lontano, è il modo in cui i migranti indicano una terra nella quale arrivare, nella quale, dalla quale poi forse ripartire per un cambiamento della propria vita, e racconta la storia di questa comunità di africani che è insediata sul territorio del litorale campano, di cui si è sentito parlare negli ultimi anni anche per delle note di cronaca piuttosto drammatiche, cioè ci fu un'uccisione particolarmente violenta di cui furono vittime alcuni di loro ad opera di un comando della Camorra per fare un regolamento di conti, ma in realtà questi che morirono erano delle persone, si scoprì che erano delle persone innocenti. Guido Lombardi ha uno sguardo molto lucido e molto rigoroso su questa comunità, nel senso che non ne prende le parti in maniera retorica, demagogica, sentimentalista, li osserva anche nelle loro debolezze, nel senso che una parte di loro è andata a finire nella criminalità per forza di cose, perché è la maniera di guadagnare di più. Insomma, il suo sguardo è uno sguardo lucido, consapevole, ha fatto un grande lavoro su questi attori che sono dei non attori, quindi insomma un lavoro veramente eccellente a nostro avviso. Settimana della critica che quindi ha segnato il suo premio, speriamo che il film La Ba trovi una distribuzione in Italia, cosa che hanno già fatto almeno un paio di pellicole, se non sbaglio, di quelle passate la settimana, mi riferisco a Missione di Pace, altro film italiano passato però fuori concorso, e a questo film, se non sbaglio, argentino, che si intitola Il Campo e che sposa un po' il genere, quasi come se un pezzo della Spagna cinematografica recente, quella che ci ha portato a una rivisitazione dei generi del thriller, dell'horror, del paranormale, si fosse un po' spostata anche in Argentina. Diciamo che non è tanto un thriller quanto un dramma familiare che però si colora di thriller, nel senso che è una coppia in viaggio, una coppia con una bambina appena nata che si trasferisce in una casa di campagna, appunto il campo, e lì, diciamo, viene alla luce la loro crisi, la crisi della donna che ha appena partorito e che quindi insomma si trova in un momento particolare della propria vita, e ci sono delle venature thriller horror perché questa casa sembra sempre promettere qualcosa che non accade mai, ma in realtà diciamo tutto quello che succede nelle dinamiche esistenziali di questa coppia. È una coproduzione che ha visto coinvolto Cinecittà Luce, che è andata a vagliare dei progetti di film in America Latina e ha investito in questi progetti con una coproduzione. Il film quindi uscirà per loro. Missione di Pace invece, che noi abbiamo presentato fuori concorso in chiusura, è un film prodotto da Donatella Botti per Bianca Film, che uscirà per Nomad, ed è un film, una commedia divertente, grottesca, ambientata in un territorio nel quale c'è una missione di pace, una delle tante missioni di pace nei quali i nostri soldati vengono coinvolti, questi soldati capitanati da un confusionario Silvio Orlando, tra l'altro vessato da un figlio pacifista che è interpretato da Francesco Brandi, e c'è questo contrasto fra padre e figlio, che è l'altra missione di pace, diciamo, il tentativo di riconciliazione fra padre e figlio, che si svolge nello stesso momento in cui si svolge il tentativo di pacificazione in quei territori della ex Jugoslavia. Film molto divertente che è stato accolto da applausi, risate, insomma, e siamo molto contenti che esca anche con un numero, credo, considerevole di copie. Ecco Francesco, l'anno scorso, oltre al film italiano, ben tre film stranieri passati alla settimana della critica hanno poi trovato una distribuzione in Italia. Questo sottolinea, come dire, l'importanza di questa vetrina rispetto alla percentuale di film che ci sono, è forse più alta di quella di alcune sezioni ufficiali, ma non vogliamo ovviamente fare polemiche. Però quest'anno abbiamo detto, questi sono i film che hanno già una distribuzione. Fra quelli che ancora non ce l'hanno, su quali poni le tue speranze? Io per esempio ho sentito parlare molto bene di questo Stockholm Extra, che ha avuto appunto l'onore di aprire un po' la settimana della critica. C'è qualcos'altro che secondo te troverà o dovrebbe trovare una distribuzione? Noi puntiamo forse su Louis Vimer, il film francese, è un film che potrebbe stare tranquillamente nelle nostre sale, è un film molto bello, è una storia di donna che si trova per la prima volta a fronteggiare una situazione di povertà, una donna borghese che è costretta a vivere in una macchina perché ha perso tutto in seguito a un divorzio, in seguito a una separazione col marito. E quindi è un film anche molto attuale, la sua protagonista è stata applauditissima, ha fatto una performance veramente notevole. Un altro film bello è La Terre Outragée, che è un film di una regista franco-israeliana, girato in Ucraina e ricorda il disastro di Chernobyl, quel giorno in cui successe, seguendo la vita di alcuni personaggi e rivedendoli poi 10 anni dopo. È il primo film di finzione di una documentarista che si chiama Mikal Boganim, che aveva fatto un film molto bello che si chiama Odessa Odessa. Insomma, i film su cui una distribuzione intelligente potrebbe puntare ci sono anche quest'anno, speriamo bene. Grazie a Francesco Di Pace, coordinatore della settimana della critica di Venezia, e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Ebbene, allora abbiamo parlato anche della settimana della critica con gli auspici di Francesco Di Pace, con i premi assegnati. Chiudiamo questa totalizzante parentesi veneziana, ma del resto più che parentesi qui è una struttura, perché Venezia insomma è sempre uno dei festival che muovono i maggiori interessi a livello internazionale, quindi è assolutamente doveroso parlarne. Noi a questo punto siamo però ancora insieme a voi per giocare, terza e conclusiva traccia del DVD Game di oggi, sentiamo. Roman, perché ci hai messo tanto? Pensavo che saresti arrivato almeno con i cerchioni cromati. Divertente. Scommetto 100.000 dollari che vi batto nel prossimo quarto di miglio. Facciamo 1.000.000. Mi piace, ok, 1.000.000 per un quarto di miglio. E allora questa era l'ultima traccia, se avete indovinato di che film si tratta, e ormai dovrebbe essere abbastanza chiaro, La Rosa Purpurea @radio24.it è la possibilità, scrivendo il titolo esatto, il vostro indirizzo, per vincere il Blu-ray di questo film. Ovviamente la settimana prossima sveleremo tutto, recensiremo tutto, torneremo insomma anche con tutta la parentesi dell'on video, delle uscite con Claudio Pofi, nel format diciamo così autunnale della Rosa Purpurea. A questo punto però noi parliamo di cinema da vedere in televisione. E conto, eccoci allora insieme agli amici di Film TV, un'altra grande tradizione della Rosa Purpurea che riprende in questa seconda puntata di settembre, quello di appunto farci raccontare dagli amici del settimanale di cinema e TV, Film TV appunto, diretto da Aldo Fittante, quello che si muove nei palinsesti televisivi in chiaro e quindi rigorosamente in chiaro per vedere il grande cinema, rivedere il grande cinema in televisione durante la settimana successiva. I nostri amici vanno a spulciare un po' nei palinsesti e ci consigliano un paio di film alla settimana. Cadiamo bene anche questa settimana, perché di grande cinema in televisione se ne può vedere davvero sempre. In collegamento con noi c'è Claudio Bartolini dalla redazione di Film TV. Ciao Claudio. Ciao Franco, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo cominciato scegliendo un giorno, c'è cioè un giorno cardine della prossima settimana nella quale appunto c'è una serata importante di cinema, come sempre con sfumature totalmente diverse, ma questo è il bello anche delle nostre scelte. Partendo da un film che a me sta molto a cuore, l'ho amato sin dal primo momento che lo vidi, e non mi ricordo più quale festival fu, forse fu proprio Cannes, In the Mood for Love di Wong Kar-wai. Ma innanzitutto ti confermo, sì, che era Cannes. Siamo nell'anno 2000 quando Wong Kar-wai mette insieme questo autentico capolavoro a cui noi come rivista abbiamo affibbiato il giudizio di ottimo, ma siamo stati in dubbio se cambiarlo in eccezionale fino all'ultimo momento. E in effetti questo non è soltanto uno tra i film più belli di Wong Kar-wai, è anche un capolavoro senza tempo della storia del cinema, costruito più sui vuoti, sull'assenza, sui silenzi, sulle ellissi che ripercorrono la vita sentimentale dei protagonisti, un melò davvero, davvero efficace, davvero straziante, e per la qualità delle immagini e per la qualità della scrittura. E allora ricordiamo il passaggio televisivo di In the Mood for Love, mercoledì 14 settembre su Rai 4 alle 21:10, quindi questa è la prima scelta. E quando finisce In the Mood for Love siete in tempo a girare su Rai Movie, perché sempre mercoledì 14 settembre c'è un film, come dicevo, di tutt'altro genere, ma anche quello che aveva anche un esito importante in sala, ovvero Piccoli omicidi tra amici. Ma sì, Piccoli omicidi tra amici, confermo, fu un discreto successo in sala, nonché la prima opera, l'esordio nel cinema di Danny Boyle, regista che in futuro a Hollywood sarà premiato con l'Oscar per The Millionaire. Primo film di Danny Boyle, che non è altro che un meccanismo a orologeria, un thriller atipico nel quale utilizza con parsimonia gli ingredienti della commedia, del grottesco e appunto del giallo più vero, più puro, ambientato fondamentalmente in un appartamento nel quale succede un po' di tutto. C'è un inquilino misterioso che muore, i tre coinquilini che indagano e nello stesso tempo si invischiano in un giro poco chiaro che porterà la loro amicizia a concludersi, ma non solo, anche la vicenda a deflagrare. Danny Boyle che usa la violenza comunque con mano delicata, non affonda mai il colpo nelle ferite dei protagonisti, fisiche e psicologiche, ma nello stesso tempo tratteggia tre personaggi costantemente in bilico tra una dimensione realista e una dimensione trascesa. E allora ricordiamo ancora l'appuntamento, sempre mercoledì 14 settembre per Piccoli omicidi tra amici. Tu hai citato ovviamente il Danny Boyle più recente, quello di The Millionaire, io ricordo Trainspotting, anche perché questo è un film importante che può dare anche un unicum, no, della sua filmografia. Dicevo, 14 settembre Rai Movie alle 24, mezzanotte in punto, per Piccoli omicidi tra amici. Grazie a Claudio Bartolini, appuntamento alla prossima settimana con i consigli di Film TV. Grazie a te Franco. E questa volta con Film TV chiudiamo la nostra trasmissione. Siamo arrivati in fondo a questa Rosa Purpurea. Abbiamo parlato in abbondanza della Mostra del Cinema di Venezia, ma anche di tutto quello che da lì arriva nelle nostre sale, davanti agli schermi. Buon weekend cinematografico a tutti e un saluto da Franco D'Assisti.